si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buona domenica, cari ascoltatori. Ben ritrovati da Alessio Maurizi insieme con Si può fare. Fino alle 11 di questa mattina, un'occhiata velocissima alle prime pagine del giornale di oggi, per chi non avesse già sentito la rassegna stampa più approfondita fatta poco fa dalla nostra Giulia Crivelli, poi il Sole 24 Ore, il domenicale, inserto culturale, ma naturalmente dopo il GR delle 9 cominceremo con i nostri approfondimenti, sempre a caccia di buone notizie. Cominceremo questa domenica mattina, ve lo dico subito, con una intervista al procuratore della Repubblica di Torino, il magistrato Armando Spataro, di grande esperienza sul tema dell'immigrazione, dei profughi, mentre l'Europa insomma discute delle quote che però non piacciono a Francia e a Gran Bretagna. In Italia si pensa a come distribuire i profughi tra le varie città, c'è il tema dei controlli anche sugli sbarcati tramite i barconi, per il rischio che insomma ci siano terroristi che stanno sui barconi. Non entreremo nel merito direttamente del caso Touil, il cittadino marocchino su cui la Tunisia pure concentra ancora, conferma le sue attenzioni, dice abbiamo prove certe della sua responsabilità nell'attentato al museo del Bardo di Tunisi, anche se lui in quei giorni risultava essere a scuola in Italia, attenzione sul naviglio. Non entreremo nel merito di questo, ma con il magistrato Spataro parleremo di tutti questi argomenti dopo il GR delle 9, però adesso cominciamo con i giornali, vai! Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, un po' da tutte le parti, tutte le prime pagine ci sono le foto, le notizie, i commenti sul referendum in Irlanda, dove oltre il 60% della popolazione ha detto sì ad inserire nella Costituzione il diritto per le coppie dello stesso sesso di unirsi in matrimonio. Poi ci sono un po' di punti di vista, interviste, come per esempio quella del ministro Boschi sul Sole 24 Ore, interessante, di oggi. Ma per esempio il Corriere della Sera apre invece con le parole di Mario Draghi, il governatore della Banca Centrale Europea, che una volta tanto fa un monito, diciamo, extra monetario, se volete, anche se parte proprio dalla moneta unica. Euro, avvertimento di Draghi e il presidente della Banca Centrale Europea: le differenze tra i paesi possono diventare esplosive, titola il Corriere della Sera. Netto richiamo ai governi del presidente della BCE Draghi sulla necessità di realizzare riforme strutturali, tema di cui parliamo da anni, a dir la verità. Ma insomma, il virgolettato di Draghi è questo: in una unione monetaria non puoi permetterti di avere grandi e crescenti divergenze strutturali, tendono a diventare problemi esplosivi e minacciano l'esistenza della moneta unica. Sullo sfondo, naturalmente, la questione greca, ma non solo. Foto con le rovine del sito archeologico di Palmira, bandiera nera sui tesori dell'antichità. E anche in questo caso, insomma, tra i tanti commenti, quello di oggi sul Corriere è dedicato proprio all'avanzata dell'ISIS in Siria. Secondo titolo, però, dicevamo, dedicato all'Irlanda: la cattolica Irlanda dice sì alle nozze gay. Poi c'è il dibattito che si apre anche in Italia su questo, noi vedremo tra poco qualche stralcio. Prima però fatemi andare sempre dal Corriere in un altro paese europeo dove c'è un importante test elettorale, la Spagna. Oggi si vota, prova generale per gli anticasta, perché in effetti ci sono ben due movimenti che debuttano, diciamo, in una competizione elettorale di questo livello. Si vota in 10 regioni e in 8.000 municipi. Podemos e Ciudadanos sfilano i movimenti di cittadini, diciamo sullo stile Movimento 5 Stelle, ma che recentemente Podemos ha preso le distanze al Movimento 5 Stelle, dicendo non siamo come loro che criticano e distruggono tutto, siamo più propositivi. Questo è quello che ha detto Podemos. Non ha detto distruggono tutto, ma insomma è un movimento, ha detto il Movimento 5 Stelle, più meno costruttivo di noi. Comunque Podemos e Ciudadanos sfidano il bipartitismo storico, i sondaggi confermano i popolari al primo posto, ma invece il Partito Socialista deve lottare per il secondo posto. Secondo altri sondaggi invece i movimenti di cittadini, Podemos e Ciudadanos, potrebbero anche insidiare addirittura la leadership dei popolari. Ma torniamo sul tema Irlanda, andando su un altro giornale, Repubblica, che vediamo, fa qualche intervista, per esempio al leader dello Sinn Féin, Gerry Adams, storico leader politico irlandese: siamo felici, è un grande giorno per i diritti civili. Poi insomma, la Chiesa è libera di dire quello che vuole, ma questa norma è una questione di civiltà. Poi c'è invece l'intervista alla leader dei movimenti del no, Louise Doris: prossimo passo, le madri surrogate, adesso serve uno stop, la preoccupazione, diciamo, dei conservatori. C'erano già le unioni civili, il matrimonio gay cambia il concetto di famiglia, siamo contrari per motivi etici e religiosi. E dicevamo che insomma questo dibattito ha ricaduto naturalmente anche sull'Italia, è inevitabile, perché sempre da Repubblica intanto vediamo la mappa dei paesi nel mondo dove i matrimoni omosessuali sono legali, parliamo proprio dei matrimoni omosessuali in questo caso, quindi diciamo ci sono leggi approvate in Canada, in Brasile, in Uruguay, in Argentina, per restare in America, oppure andando per esempio in Sudafrica c'è una legge dal 2006, non so se lo sapevate, io per esempio non lo sapevo. Poi c'è l'Europa, adesso c'è l'Irlanda, ma ci sono la Scozia, l'Inghilterra, il Galles, la Danimarca, la Norvegia, la Svezia, l'Olanda e via discorrendo. Ci sono poi paesi dove ci sono leggi in singoli stati, in singole regioni all'interno dello Stato, come negli Stati Uniti. Ci sono paesi come l'Australia dove c'è una proposta di legge che si sta discutendo, e ci sono paesi come l'Italia, diciamo tra i paesi sviluppati stiamo parlando, esclusa l'Asia e l'Africa, dove non succede nulla. Scalfarotto, intervista su Repubblica: ora una legge per i diritti sarà una corte europea a obbligare l'Italia. E poi invece l'intervista a Monsignor Pennisi, vescovo di Monreale, rappresentante del Vaticano sul tema della famiglia: ma la Chiesa resta contraria, la famiglia naturale rimane il fondamento della società. Il titolo principale di Repubblica però è dedicato allo scontro, ancora una volta, tra Renzi e i sindacati, in particolare il segretario della CGIL Camusso, sul tema del sindacato unico, perché sapete che il premier Renzi ha parlato di arrivare prima o poi a un sindacato unico in Italia. Reazione del Camusso, che dice: è una concezione tipica dei regimi totalitari. Vediamo se c'è qualche spunto anche qua. C'è un'intervista per esempio al segretario della FIOM Landini su Repubblica, che ormai parla apertamente di un premier autoritario che pensa solo agli industriali. Poi c'è una notizia che viene da Bruxelles in tema di lavoro e di reddito minimo per i disoccupati. Bruxelles gela le regioni, niente reddito minimo con i fondi comunitari. È arrivata una richiesta di informazioni a Bruxelles da parte di alcune regioni, in particolare la Lombardia, che come sapete con il presidente Maroni vuol fare il reddito di cittadinanza regionale, un reddito minimo regionale, e avevano chiesto se i fondi sociali europei potevano essere utilizzati a questo scopo. Ebbene, la risposta di Bruxelles è no, e quindi insomma Maroni dovrà trovare un altro modo per finanziare questa iniziativa in Lombardia. La Stampa dedica un secondo titolo, dopo quello sull'Irlanda, al recupero anche qui di un modo diverso di finanziare la questione dell'IVA. Anche qui c'è una bocciatura da Bruxelles, sapete, il tema dell'IVA nella grande distribuzione: i soldi arriveranno dalla lotta all'evasione. Il governo dice: così recupereremo i 700 milioni, niente caro benzina, perché sapete che ci sono le clausole di salvaguardia, che se il governo non trova strumenti alternativi per questi 728 milioni di euro, sono pronte le accise sulla benzina a scattare, ad aumentare. La Stampa dedica anche due pagine a che cosa? Un evento che inizierà il prossimo fine settimana. Da Venezia a Torino in bicicletta lungo il Po parte l'avventura per costruire la pista ciclabile. È un progetto che nasce dal Politecnico di Milano, condiviso a questo punto tra comuni, associazioni, istituzioni, da 150 soggetti, per costruire la più grande pista ciclabile in Europa, una delle più grandi in Italia, una delle più grandi sarebbe anche in Europa. 679 chilometri da percorrere in bici da Torino a Venezia. Un indotto turistico, si pensa, calcolato in oltre 100 milioni di euro l'anno, 2.000 posti di lavoro attesi, 400.000 visitatori all'anno stimati, oltre 1.300 beni culturali visitabili. Manubrio, pedali, vento che accarezza la faccia e al lato il mormorio del grande fiume, il Po, lento e inesorabile, che scorre verso l'Adriatico. Giulio Geluardi scrive sulla Stampa. Quindi, se volete sapere tutto su questo progetto, la pedalata simbolica per insomma, dare il via a questi lavori, ma è un'iniziativa che va avanti da anni, ci vorrà forse ancora un po' di tempo per realizzarla. La pedalata simbolica, dicevo, parte il prossimo 30 maggio. Tra l'altro Radio 24 è media partner di questa iniziativa, quindi ve la racconteremo abbondantemente in vari modi. Ancora una segnalazione sul Sole 24 Ore, perché diciamo c'è l'intervista al ministro Maria Elena Boschi, che dice: decreti fiscali a giugno, sulla riforma della scuola la fiducia è l'estrema ratio. Ma parte su un altro tema, quello dei decreti attuativi delle leggi. Siamo sotto i 300, anche l'OCSE si è complimentato. Scusi ministro Boschi, l'intervista di Fabrizio Forchier. Sì, dice lei, mi riferisco ai provvedimenti attuati. Voi del Sole 24 Ore sapete di cosa parlo, era la vostra ossessione, è diventata la mia, ma è un'attenzione che bisogna avere, perché non si fanno se non si fanno i decreti e i regolamenti che danno attuazione alle leggi, le riforme restano lettera morta. Quando siamo arrivati al governo ce n'erano 889 che derivavano ancora dalle riforme di Monti e Letta, siamo scesi a meno di 300 decreti attuativi, quindi la percentuale di attuazione del 71%. È stato un grande lavoro fatto da noi, da tutti i ministeri, cioè l'orgoglio del ministro Boschi nell'intervista al Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo per il traffico, poi torniamo tra un attimo. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua, 8.50, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, di nuovo ben ritrovati con Si può fare. Adesso è il momento di lasciarsi guidare dalle parole di Armando Massarenti, curatore responsabile e direttore dell'inserto culturale del Sole, il domenicale. Ciao Armando. Ciao, buona domenica a tutti. Eccoci qua, allora oggi noi ci mettiamo qua, chiudiamo gli occhi, ci rilassiamo, dove ci porti? Ma guarda, ti dico subito questa frase, forse la conoscerai già, la conosceranno anche i nostri ascoltatori: tutti abbiamo abbastanza forza per sopportare i mali degli altri. Ecco, questo è uno forse degli aforismi, anche se a volte non ne siamo del tutto convinti. Perché... esatto, neppure di quello. E la Rochefoucauld è l'autore di questa frase molto sì. nota, e siccome esce una edizione delle sue massime per la Einaudi, per i millenni Einaudi, cioè per la collana più prestigiosa dell'Einaudi, abbiamo pensato bene di fare una bella apertura con anche un po' di esempi di queste due frasi piuttosto così fulminanti. Il primo, diciamo, che sistematicamente è andato a scandagliare l'egoismo umano, facendolo diventare appunto fonte di questi aforismi, queste massime molto famose, che qui sono proposte però in un'edizione critica particolarmente preziosa, curata dal nostro collaboratore Carlo Carena, e quindi insomma ci troviamo con un ritratto di La Rochefoucauld molto bello, conciso, da parte di Jean d'Ormesson, che è a Parigi, dell'Académie Française. E insomma, non si dà nulla con tanta liberalità quanto i consigli, questa è un'altra delle massime. Oppure, beh, senz'altro per gli amanti degli aforismi di questo genere, insomma, è un bel appuntamento questo testo. Esatto, tra l'altro quello più generale di tutti è proprio quello che dice che l'amore proprio è il più grande di tutti gli adulatori, no? E appunto queste sono variazioni dell'amore proprio, come l'abbiamo dell'amor proprio, come l'abbiamo, cioè quindi insomma dell'egoismo, variazioni sull'egoismo, che poi in realtà, se uno le legge al contrario, no, si rende conto di quali sono invece le virtù a cui lui fa riferimento, cioè diciamo che manda tutto, rivolge tutto nella direzione dell'egoismo, ma in realtà è sempre delle virtù che sta parlando, e quindi questo produce un effetto cognitivo piuttosto interessante a mio parere. Tra l'altro non sono gli unici aforismi che abbiamo in questo numero, perché abbiamo anche un bel pezzo di Gino Ruozzi, che è uno dei maggiori esperti appunto di aforismi in Italia, che recensisce l'ultimo libro del più grande intellettuale tedesco, che è Hans Magnus Enzensberger, Considerazioni del signor Zeta, ovvero briciole da lui lasciate cadere e raccolte da chi lo stava ad ascoltare, no? Si inventa questo personaggio, questo tal signor Zeta, e si inventano anche tutti gli aforismi che avrebbe così centellinato nel corso del tempo. Tra l'altro si parte proprio con una citazione che riguarda Oscar Wilde. Con tutte le sue battute, Oscar Wilde ha fornito sicuramente citazioni immortali, ma non si è fatto degli amici. Però mi piace raccontare Oscar Wilde perché oggi abbiamo, sapete di ieri che c'è stato questo referendum in Irlanda, certo, sulle nozze gay, e noi abbiamo due interventi, appunto, come una rivincita di Oscar Wilde, che sapete è stato processato per omosessualità, eccetera. Insomma, i tempi sono cambiati, è una riflessione che saremo costretti a fare anche in Italia. Qui abbiamo uno dei più importanti filosofi della politica italiani, che è peraltro un nostro un regolare collaboratore, che è Sebastiano Maffettone, che fa una proposta liberale per far convivere valori religiosi e diritto al benessere di tutti, senza discriminazioni sessuali e culturali, a proposito appunto delle unioni gay. Poi e avete scelto di titolarlo Tutti civilmente uniti, così, diciamo. Sì, esatto, tutti, esatto. In maniera, sì, esatto, da trovare delle norme sufficientemente generali, da un lato per evitare discriminazioni, questa è la proposta di Maffettone, e dall'altro per evitare appunto lo scontento di chi ritiene che invece il matrimonio debba avere soltanto alcune caratteristiche tradizionali. Peraltro di spalla, a fianco del pezzo di Maffettone, c'è un pezzo di Vittorio Lingiardi che riporta un editoriale importantissimo che è stato pubblicato dal New England Journal of Medicine, che praticamente sostiene che dal punto di vista medico, proprio dal punto di vista del benessere generale, della salute generale di una società, è bene ammettere i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Tra l'altro c'è un nostro ex collega, Stefano Bucci, che adesso è un collega del Corriere della Sera, che ha scritto un libro in uscita da Marsiglio, I veri amori sono diversi quando una coppia gay ha il coraggio di sposarsi. Insomma, c'è parecchio materiale per riflettere. Bene, in questa giornata, tra l'altro, dove naturalmente invece i giornali sono ricchi di cronaca su questo voto, invece sul Domenicale degli approfondimenti, come è giusto che sia, in stile Domenicale. Grazie Armando Massarenti, grazie. Ci ritroviamo domenica prossima, buona domenica, un abbraccio. Noi invece con Si può fare ci ritroviamo dopo il GR e, come ho già detto, sentiremo il procuratore della Repubblica di Torino Armando Spataro sul tema della gestione dei profughi e degli immigrati in Italia, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare insieme fino alle 11. Tra poco sentiremo il procuratore di Torino Armando Spataro sul tema della gestione dei profughi, rischi legati alle infiltrazioni di terroristi nei barconi, partendo da una buona notizia che è questa: a Torino, proprio su iniziativa del magistrato Spataro, che sentiremo tra poco, il capo della procura di Torino, c'è un pool di magistrati che si occupano proprio di snellire le procedure per la richiesta di asilo, cioè per definire lo status di profugo eventualmente, oppure per sentiremo come respingere queste richieste, insomma, però velocizzare questo diciamo acquisizione di status di rifugiato, proprio nel momento in cui l'Europa sta discutendo di istituire delle quote di profughi da distribuire nei vari paesi membri dell'Unione Europea. Questo tra poco, 800 24 0024 per intervenire in diretta. Ci risentiamo dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. No one. Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Eccoci qua, ben ritrovati, 800 24 00 24, vi aspettiamo. Oggi Milano, Monterosa, sole. Sole bello. Bellissimo, è venuto fuori un bellissimo sole. Stavo per dire si va al mare, ma dove? Ma dove si va? Noi siamo, qua, fermi qui, fino a tutto giugno. Allora, cari ascoltatori, tra poco, l'ho già anticipato, partiremo da questa intervista importante al procuratore della Repubblica di Torino, Spataro. Parleremo insomma della gestione dei profughi, con questa notizia di un pool di magistrati che a Torino si occuperà proprio di snellire queste pratiche, perché è proprio da qua che l'Europa sta discutendo su queste quote di profughi da distribuire in Europa. Bisogna prima però stabilire se uno ha lo status di rifugiato oppure no, quindi prima si fa, meglio è per tutti. Poi c'è il gioco, naturalmente. Assolutamente. Il personaggio della settimana che andiamo cercando come ogni domenica mattina. E... sta a te dare il primo indizio. Noi cerchiamo un personaggio della settimana al quale è legato una notizia, sì, di questa settimana, sì. E vediamo degli indizi e speriamo che riusciate a indovinarlo, di vedere il premio. Ecco, sì, ma prima, a questo punto dico l'indizio. Scusami, il primo indizio è questo: che il personaggio ha diviso l'opinione pubblica. No, quindi ci sono personaggi che mettono d'accordo tutti, personaggi che invece dividono l'opinione pubblica, in questo caso è così. Cerchiamo quello. E chi risponderà, indovinerà, insomma, abbiamo tempo fino alle 11 di questa mattina, vincerà una bella collana di quelle che il Sole 24 Ore insieme al Touring Club metterà in uscita a partire da giovedì 28 maggio. Quest'estate in vacanza con il Sole 24 Ore, le guide verdi del Touring Club, le più belle città d'Europa e del mondo, in 27 uscite tra guide, mappe e frasari. Tutta la collana di guide verdi la regaliamo oggi. Tutta la collana. Quindi, a proposito di mare, giustamente è il posto dove si va d'estate, stavi dicendo. E quindi, a proposito di mare, io in realtà mi sposterò verso il mare, io, come ben sai, perché stasera sarò a Catanzaro. Sono felicissimo di andare in Calabria a presentare Fossi in te, io insisterei. E poi sarò in Sicilia, perché il 26 sono a Palermo, il 27 a Messina e il 28 maggio a Catania, sempre a presentare il libro Fossi in te, io insisterei. Quindi sono felicissimo di venire verso il mare, poi torno tranquillo, Alessio, torno, e sabato e domenica sono qui. Siamo con qua, te. Siamo qua. Noi invece non ci muovevamo, io, Peter Bescapello, Renzo Nespoli, siamo qua. Anche giustamente ogni volta sottolinei sì, il fatto, no, che io mi sono mistamente, no, che noi siamo qua. Hai ragione. Ma poi inizia il mese dei Pride. A proposito del mese dei Pride, visto che ne abbiamo parlato ieri e probabilmente tu ne hai già parlato in rassegna stampa, sì, perché è su tutti i giornali, l'Irlanda ha detto sì al matrimonio fra persone dello stesso sesso. La cosa secondo me importante non è solo questa notizia, ma il fatto, perché loro già ce l'avevano una sorta di unioni civili, ma il fatto che A, è stato messo nella Costituzione questo nuova legge, e B, che è stato fatto con un referendum popolare. Questa è una bella iniziativa, il referendum. Quindi molto diverso da altri paesi. Anzi, se volete chiamare ascoltatori all'800 24 00 24 per dire la vostra, per dire se siete felici, se aspettate che questo accada anche in Italia, oppure se invece siete avete contrari, opinioni diverse, contrarie, perché insomma le opinioni ormai le conosciamo, però è giusto anche ripeterle, perché no? Giusto, c'è stato anche un bel siparietto ieri fra la Cirinnà, che è colei che ha scritto la legge, e Adinolfi, quando la Cirinnà chiedeva ad Adinolfi, diceva: ma nel momento che noi facciamo un nuovo istituto per cui anche le coppie dello stesso sesso hanno un loro istituto matrimoniale, diciamo, che cosa, quali diritti va a ledere per coloro che invece sono per il matrimonio tradizionale? E Adinolfi non ha saputo rispondere. Più diritti per qualcuno non fanno male a nessuno, esatto. Io mi diverto a dire così. Adesso iniziamo, 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi ricordo soltanto che stiamo cercando anche un personaggio della settimana. Il primo indizio è che è un personaggio che divide l'opinione pubblica. Sono un terronaccio, sono un meridionale, io sono un marocchino, io sono un buon compra. Voi fatemi una legge, voglio restare qua, se vuoi pago le tasse, però fammi campare. Portata io, perciò sono innocente, ti giuro innanzi a Dio. Sono meridionale, voglio restare qua. Se sbaglio sai che pago, se rigo dritto godo. Extra, extra, nero modo un bram. Tu chiamami come ti pare, però fammi campare. Sono un extra, extra, un meridionale. Ormai siamo nel palco, perciò sarò palla. E allora parliamo di immigrati, di migranti e anche di richiedenti asilo, cioè di profughi, lo ripeto, mentre l'Europa discute su questa questione delle quote, noi discutiamo in Italia su come gestire i profughi, ma anche su come snellire le pratiche, perché prima si decide lo status di rifugiato, prima eventualmente sarà possibile appunto inviarli anche negli altri paesi in ossequio di queste quote di cui appunto si discute in Europa. Tutti i temi di cui vogliamo parlare con Armando Spataro, procuratore della Repubblica di Torino. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Buongiorno. Grazie per essere con noi di domenica mattina. Il tutto partendo da una notizia, l'ho già detto, a Torino nasce un pool di magistrati per ridurre i tempi di attesa. Cioè voi vi siete rimboccati le maniche su questo argomento. Perché la prima domanda che le voglio fare, Spataro, è questa. I tempi medi oggi sono molto lunghi per un richiedente asilo che arriva nel nostro paese per ottenere, oppure neanche nel caso non ottenere, lo status di rifugiato. Quanto tempo poi stanno in attesa di questa sentenza? Guardi, intanto una piccola correzione, lo scopo di questa scelta organizzativa non è soltanto quello di abbreviare i tempi, ma di curare nella sostanza e con approfondimento la situazione e i ricorsi. Perché? Perché la prima parte della procedura non è di competenza della magistratura, nel senso che l'immigrante che arriva e che intende ottenere l'asilo politico o una forma sussidiaria di protezione si rivolge a una commissione territoriale. Le commissioni territoriali sono appunto quelle che esaminano le domande e concedono meno asilo. Una per ogni regione al momento, se non sbaglio. No, sono meno. Inizialmente erano 10 le commissioni territoriali, ora sono state portate a 20, quindi ce ne sono talvolta anche più di una, ma insomma è una diffusione sul territorio che dovrebbe tenere conto sia dei luoghi in cui arrivano i migranti, sia poi del posto dove si trasferiscono per ottenere lo status. Certo. Ora, quindi, la procedura dinanzi a queste commissioni, come dicono anche gli interessati, i funzionari prefettizi che le dirigono, sono complesse e quindi è difficile stare dietro all'arrivo e al numero delle domande con tempi brevissimi. Si parla di vari mesi, insomma, voglio dire, vari mesi. Nel frattempo, ovviamente, i richiedenti hanno una situazione precaria. Sì, certo, sono ospitati, ma insomma, la situazione non è facilissima. Poi cosa avviene? Se la domanda non viene accolta, l'interessato, assistito da un avvocato, può proporre ricorso, l'accoglimento o meno è di competenza del tribunale. Rispetto al tribunale, sì, ecco che si pone l'intervento anche del pubblico ministero, il quale deve esaminare ed esprimere il parere. Allora, dal punto di vista di Torino, ma non solo, perché vi sono anche altre prassi virtuose che si stanno diffondendo, è importante non solo il tempo, ma evitare un'interfaccia col tribunale di tipo burocratico, timbro visto nulla osta, no? E dunque occorre approfondire lo studio delle ragioni, lo studio del fondamento della domanda. E io dico anche che, siccome stiamo parlando di diritti fondamentali, è bene che questo si faccia in maniera consapevole, approfondendo la professionalità, anche rapportandosi alle modalità di decisione delle commissioni territoriali, persino sì, rapportandosi con gli avvocati, se bisogno di interlocuzione. No, anche perché, mi scusi, faccio solo un piccolo inciso, è importante questa distinzione, poterla fare fin dall'inizio, perché è chiaro che si tratta di situazioni completamente diverse. L'immigrato che diciamo decide di andare via da una situazione di povertà o di mancanza di un lavoro, eccetera, ha sicuramente la legittimità di farlo, soprattutto se ha i documenti in regola, ma insomma, ma chi scappa dai luoghi di guerra dove non, insomma, si rischia la vita, ha sicuramente più diritti, e questo deve essere accertato il più velocemente possibile. Infatti la prima categoria, quella che integra la figura definita forse impropriamente del migrante economico, cioè che per ragioni di difficoltà economica non è una categoria che dà diritto a chi ne fa parte ad avere l'asilo politico, una protezione sussidiaria. Certo. E quindi quello è un altro discorso. Piuttosto quello che è molto delicato è anche tenere presente che le convenzioni internazionali, in modo particolare quelle in materia di protezione, quella di Ginevra del 51, poi un protocollo di New York del 67, contengono, come dire, anche un obbligo di non respingimento. Spiego in che senso. Nel senso che è implicito che i paesi aderenti non possono adottare misure atte a prevenire l'arrivo dei rifugiati, no? Perché altrimenti non sarebbero possibili gli strumenti che la Convenzione sì. prevede. Quindi questo pone anche un altro elemento di riflessione quando sentiamo parlare come dire, di prevenzione dell'arrivo dei migranti. Mm. Attenzione, perché colui che si aspetta lo stato di rifugiato non può essere scritto prima che arriva, deve essere esaminata la sua domanda. Certo. Senta, su questa questione, diciamo, lei ci ha spiegato un po' come funziona la domanda che fanno i richiedenti asilo, quando poi interviene anche la magistratura, e insomma il fatto che voi volete snellire un po' le pratiche per accelerare e approfondirle e quindi diciamo arrivare in tempi utili a una decisione più sicura. Sentiamo spesso dire che l'Europa lascia l'Italia da sola, però sappiamo anche che l'Europa poi dice: noi dei soldi ve li diamo per la gestione di questa questione qua. Per quanto riguarda i tribunali italiani, voi ricevete un euro dall'Europa attraverso l'Italia oppure non ricevete niente? È un lavoro extra in più che dovete fare? No, guardi, la nostra interfaccia, soprattutto per queste, anche per queste attività, è il Ministero della Giustizia, quindi noi non abbiamo per questo tipo di attività. Non ci sono fondi extra? No, anzi, purtroppo non abbiamo i fondi neppure per comprare i post-it, ecco. Questa è la verità. Cioè, questo, diciamo, no, giusto per fotografare la situazione quando parliamo di Italia, Europa, giustizia e questa questione. Senta, un'altra domanda. L'Europa, dicevo, sta studiando questo sistema di ridistribuzione delle quote di profughi da mandare in Francia, in Germania, in Spagna, in tanti paesi, anche se alcuni di questi che ho citato in realtà hanno detto di essere poi contrari, non si sa bene a quale meccanismo. C'è una discussione, insomma, e si sta parlando di questa cosa qua, però sarebbe il paese che accoglie a dover stabilire lo status di profugo, cioè in questo caso sostanzialmente l'Italia o la Grecia o i paesi del Mediterraneo, è così? Guardi, le questioni qui in ballo sono due. Una è anche quella della cosiddetta risposta militare, poi se vuole ne parliamo dopo. La scelta di ricorrere alle quote ha una sua ragionevolezza, perché è ovvio che altrimenti la situazione andrebbe a gravare solo unicamente sui paesi che si affacciano sul Mediterraneo, i quali sono quelli che certamente accolgono e in qualche modo devono provvedere a lasciare andare verso i luoghi dove il migrante intende recarsi, appunto coloro che arrivano. Sì. Quindi un primo onere di intervento è quello dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, è del tutto evidente. E un problema però anche qui delicato si pone in fatto, perché forse anche per mia ignoranza specifica, perché tenga presente ovviamente che questo è un problema amministrativo e politico che non chiama in ballo la magistratura, quello delle quote, e quindi sì. Ci può anche stare ancora qualche interrogativo che ci poniamo. No, il problema è che, ammesso che passasse questo sistema, nonostante le resistenze di qualche Stato, quello che mi chiedo è coloro che sono sopra le quote, proviamo a immaginare che ne arrivino di più, cosa si fa? Tenga presente che, come dicono appunto dalla Polizia di Stato, nell'ultimo anno sono arrivati 170.000. Beh, l'Italia è già sopra le quote, infatti si parla della possibilità che dall'Italia in realtà debbano solo uscire dei profughi, ma stiamo parlando di una cosa molto ipotetica, su questo è chiaro che vedo. Purtroppo a livello internazionale, a livello talvolta prevalgono anche forme, tra virgolette, di egoismo politico e se non addirittura tendenze al respingimento, quasi che i migranti fossero nemici. Senta, però un'altra domanda gliela voglio fare, riguarda invece il rischio, questo sì. Ora non voglio entrare nel merito del caso Tuil, perché è un altro tribunale, lei giustamente si vuole tenere alla larga da questo, ma sul rischio di infiltrazione di terroristi sui barconi, questo qualche cosa si può dire, e sulla lotta ai trafficanti anche, per esempio di clandestini. Cioè, Certo, tenga presente che sono temi che discutiamo da parecchio, mi sono più volte espresso. Adesso vediamo cosa accadrà in questa storia dell'arrestato a Milano, ma proviamo anche a ipotizzare, lo dico ovviamente con molta prudenza, che questa persona sia effettivamente coinvolta, come dice la Tunisia, si può dire soltanto per questo che dunque i terroristi arrivano in Italia per compiere attentati attraverso i barconi. Questa è una cosa che io continuo a riferire, a definire totalmente improbabile. Non abbiamo un solo caso accertato nelle indagini degli anni passati di terroristi che arrivano per fare i terroristi in questa maniera. Ma lei se le immagina un terrorista che vuole fare il kamikaze o ammazzare qualcuno, che si imbarca a rischio di affogare nel Mediterraneo o, nella migliore delle ipotesi, di essere identificato attraverso le impronte digitali, perché tutti quelli che arrivano vengono. Allora, un conto è dire facciamo la lotta ai trafficanti, perché i trafficanti di esseri umani non meritano evidentemente una considerazione etistica. Altro è lanciare allarmi che francamente sono ingiustificati, che creano insicurezza nei cittadini. Noi dobbiamo agire con ragione, avendo anche presente che abbiamo una polizia efficace e intelligente, io dico sempre la migliore del mondo, ma ecco, stiamo attenti. Io dunque trovo che queste affermazioni siano francamente inaccettabili, così come è da discutere anche dal punto di vista qui di persone interessate alla materia, lo dico, non ho responsabilità in questo senso. È davvero inaccettabile l'idea di un attacchi militari ai barconi, dove, quando, in alto mare con i migranti, ovviamente nessuno direbbe sì. Nei porti di partenza la Libia dice no, dice che non accetterebbe neppure che nelle sue acque territoriali. Allora anche questa strada è francamente molto delicata. Sì, certo, anche su questo tra l'altro l'Europa sta studiando un modo per fare queste missioni, si dice navali, a caccia diciamo dei barconi prima che vengano utilizzati, ma nel momento in cui entra in azione poi galleggiano isolati nel mare i barconi, non lo so. No, questo bisognerebbe chiederlo a chi a Bruxelles ha pensato a questa cosa, o anche in Italia. La domanda che le voglio fare io invece è questa: quando poi interviene la magistratura nella lotta ai trafficanti, di clandestini, eccetera, la sensazione è che sia una lotta veramente impari, perché trafficanti di clandestini, ma anche il terrorismo internazionale, si viaggiano su binari appunto internazionali. Le singole procure, per esempio del Sud Italia, hanno gli strumenti, o ci vorrebbero degli strumenti in più di coordinamento giudiziario a livello europeo e anche mondiale, forse? Ecco, a livello europeo e mondiale sì, le procure in sé, intanto, se fossero accuse di terrorismo, sarebbero di competenza di poche procure, quelle cioè che hanno sede nei capoluoghi di distretto, in Sicilia, Palermo, Catania, Caltanissetta, Messina, non credo che è un luogo dove arrivano i migranti. Ma comunque, se gli uffici giudiziari italiani sono attrezzati, io dico subito che le procure hanno maturato una tradizione di efficace risposta sin dagli anni di Piombo e poi via nella mafia, nella corruzione, insomma abbiamo delle strutture e capacità. Quello che fa davvero difetto invece, e qui passiamo al panorama più ampio della lotta al terrorismo internazionale, quella che fa davvero difetto è la cooperazione internazionale, perché a fronte di convenzioni, dichiarazioni comuni, anche esistenza di luoghi fisici, penso ad Eurojust, dove far funzionare la cooperazione, questa non va, perché ancora continua a prevalere la concezione della proprietà privata della notizia. Io ce l'ho e la do agli altri se e quando desidero, e comunque dopo averla utilizzata. La cooperazione comporta uno scambio di informazioni immediato e spontaneo. E poi, quando si pensa a strumenti come il PNR, la raccolta dei dati dei passeggeri, questa non serve assolutamente a niente, è una strada, anche questa fatta e fondata sull'idea dell'annuncio, raccogliamo tutti i dati, controlliamo, preveniamo, quando, dove, come sarebbe stato possibile per esempio prevenire la strage di Parigi attraverso la raccolta dei PNR. Allora, piuttosto che studiare soluzioni che non hanno alcuna rilevanza diretta sull'attività di contrasto, o come la scelta, che pure non condivido, di attribuire la priorità di intervento alle agenzie di informazione anziché alla polizia giudiziaria, si sbaglia. Servizi e polizia giudiziaria devono mettere in campo in modo sinergico le loro energie, ma i servizi, secondo la nostra cultura, competono attività di prevenzione. Quando ci sono dei reati entra in ballo la polizia. Insomma, spero di non essere stato confuso. L'importante è comprendere che la cooperazione è fondata sullo scambio di notizie, pur nella diversità dei sistemi che esiste. Lo scambio immediato di notizie favorisce l'indagine, favorisce la risposta efficace. Beh, insomma, questo sicuramente lo sanno i magistrati che lavorano, quindi speriamo che questa cooperazione ci sia e ci possa essere sempre di più. Senta, ma insomma, su questo caso Twill, però, un'opinione sua personale se l'è fatta Guardi, leggendo i giornali? Io, diciamo, certo, con letto i giornali, devo dirle con franchezza soltanto questo. Io aspetto che prima ovviamente le autorità competenti di Milano, Roma, perché Roma procede, come si sa, per la strage, ma voglio dire, dopo loro mi piacerebbe leggere i provvedimenti emessi dall'autorità tunisina, perché per comprendere quali sono gli elementi, le prove su cui si fonda l'accusa. Ecco, sulla base di quali loro dicono che era prima nei mesi prima della strage, un mese prima avrebbe avuto un ruolo nella logistica, poi dopo. Questa è l'accusa, mentre sarebbe sapere su che cosa si fonda, sulla base di quali elementi questa accusa viene formulata. Ovviamente bisogna aver fiducia nell'attività investigativa di tutti, però insomma così. Ma la Tunisia come lo giudica? Un paese dove la magistratura insomma funziona, se forzatura. In passato ho avuto rapporti più col Marocco, devo dire la collaborazione è stata efficace. Non mi sento in grado, non avendo avuto rapporti in anni recenti col sistema tunisino, di esprimere un'opinione. Bisogna dare per scontato che siamo tutti interessati a prevenire questo fenomeno. Ho partecipato a prevenire e a contrastare il terrorismo. Sì. Ho partecipato poche settimane fa col procuratore nazionale antiterrorismo Roberti ad un incontro a Parigi che il ministro della giustizia ha organizzato tra i magistrati esperti, e c'erano magistrati del Maghreb e di altre zone africane come del Medio Oriente. Quindi, come dire, c'è comunque un desiderio da parte di tutti, anche di stati come la Tunisia, a partecipare a consessi internazionali in cui ci si scambiano esperienze, analisi, anche informazioni sui diversi sistemi di legge. Già questo è fatto positivo. Quando poi ci si scambierà in tempi rapidi le informazioni, sarà anche meglio. Va bene, grazie Armando Spataro, buona domenica. Grazie mille. Grazie per essere stato con noi. Insomma, un tema complesso, complicato, però in questa settimana ci sembrava giusto sentire il punto di vista di un magistrato di grande esperienza anche nella lotta al terrorismo come Spataro, e che soprattutto a Torino sta cercando di mettere su un pool per velocizzare i tempi, perché lo ripeto, prima si definisce lo status di rifugiato, prima sarà poi possibile eventualmente anche per questi rifugiati poi andare nei paesi dove vogliono andare. In Europa si discute di quote e questo potrebbe essere, diciamo, un miglioramento anche per la situazione. È molto italiana. Interessante. Tanto che abbia sottolineato, i terroristi non arrivano coi barconi per farsi. E comunque la vera cosa è che se anche qualcuno non arrivasse non è quella la questione, nel senso che ce n'è anche alcuni che arrivano in treno, però non è che blocchiamo i treni. Ce n'è qualcuno che arriva in aereo, non è che blocchiamo gli aerei. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo anche per intervenire, per commentare quello che avete sentito l'intervista a Spataro, poi per giocare con noi il personaggio della settimana. Ripetiamo l'indizio: ha diviso l'opinione pubblica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno. Cari ascoltatori, allora ce ne sono molti già in attesa di intervenire, soprattutto credo sul gioco. Cominciamo con Luciana che ci chiama da Vicenza. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, secondo me il personaggio da indovinare è Formigoni. E come mai? Qual è la notizia di riguardo Formigoni di questa settimana? Perché è stato criticato indubbiamente per il suo scatto senza controllo. È criticato da più di una settimana, direi, Formigoni, se forse si può dire. Da più di una settimana, non lo ricordo. Beh, in generale, sì. Ah, beh, sì, no, Formigoni in quanto tale, sì, per quella cosa lì all'aeroporto, Formigoni. All'aeroporto, sì. Ecco, ma d'altra parte si può a volte capire, dati i disagi che si trovano nell'uso dei... Lei si è immedesimata nello scatto di Formigoni? Un pochino, dopo non arriverei mai a quegli scatti. Va bene. Non è il nostro personaggio, però la ringraziamo di aver chiamato, anche per aver ricordato la notizia riguardo Formigoni, che ha questo momento così di urlato contro l'Italia, urlato, insultato, detto la qualunque. Momento di panico del compassato Formigoni. Giovanni da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Scusa, Umberto Veronesi, avevo pensato. Sì, sì, questa settimana nella trasmissione Semano 1 aveva parlato fra vegetariani e chi mangia carne, la suddivisione tra questi due gruppi. E questo aveva creato un po' di polemica. Sì, Veronesi è un vegetariano, però lui non spacca un pochino, sì. Ecco, il discorso fra vegetariani e carnivori, diciamo. Sì. Era questo. non era questo. No, il personaggio non rimasti... è questo, però, però siamo comunque contenti. Era anche questa una sì, notizia papabile. Una notizia della settimana, ci poteva stare. Grazie Giovanni. Andiamo con Francesco da Ascoli, buongiorno. Sì, buongiorno. Cosa voleva intervenire, Francesco? Io sul quiz. Ah, perfetto. Ottimo. Allora, secondo me è un fatto più che un personaggio. Sì. Perché ricordiamo che noi a volte scegliamo anche dei fatti, scegliamo anche dei monumenti, scegliamo anche dei... di tutto. Adesso non dare troppi indizi. Conoscendo il vostro stile, un po' la vostra tendenza, secondo me potrebbe essere il referendum in Italia, in Irlanda, sui matrimoni gay. Apprezziamo il lapsus intanto, il referendum l'abbiamo in Italia. Esatto. Magari. No, non è. La notizia l'abbiamo data, ne abbiamo era parlato un po' facile troppo. Questo. Ci avevamo pensato, non avremmo scelto nel caso il referendum, avremmo scelto l'Irlanda. Però sarebbe intera. Stata comunque giusta la risposta sarebbe in ogni caso. Assolutamente però giusta, ma non è il personaggio che abbiamo scelto, anche perché sennò poi mi tacciano di essere il difensore della gaitudine, quindi non potevamo, ma non potevamo, lo sono, lo sai comunque, esatto, ci lo siamo, altro, lo siamo, lo siamo. Raffaella da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, secondo me è Bonino che ha annunciato di essere guarita dal cancro. Questa è una bella notizia, notizia di questa è settimana, bellissima. Anche se diamoci cauti, ha detto che la malattia è regredita e che lei sta meglio, questo sì. Questa era la notizia che forte. Che sono scomparse, è scomparsa l'evidenza sì, di tumore. La notizia è ovviamente straordinaria. Avevamo anche pensato di sceglierla, poi insomma ci sembrava giusto attendere, scegliere un'altra. Quindi non è il personaggio giusto. Era un po' un trappolone, ma siamo felicissimi di aver potuto parlare. Grazie di Emma Bonino. Grazie Raffaella, anzi, che ce l'ha ricordata questa notizia e questo personaggio della settimana, Emma Bonino. Il nostro personaggio è un altro personaggio che ha comunque diviso l'opinione pubblica. 800240024, tra poco magari un altro indizio. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. La prossima notizia è un'occasione imperdibile per far sentire Pata Pata di Miriam Makeba. Abbiamo costruito quasi la notizia per far sentire la canzone. Stiamo ballando, stiamo facendo la ola. La notizia è questa: al Salone della Tecnologia Industriale di Johannesburg, in Sudafrica, ci sarà rappresentata l'esperienza di Parma, la nostra piccola città di Parma, con il suo gioiellino nella gestione dei rifiuti, che è il porta a porta. E insomma, questa è una notizia che ci rende abbastanza orgogliosi. Ne parliamo con l'assessore all'ambiente di Parma, Gabriele Folli. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno assessore. Grazie per essere con noi di domenica mattina. Complimenti intanto per questa... Grazie, grazie. No, una bella soddisfazione che è dovuta soprattutto ai cittadini di Parma che da 2 anni a questa parte sono impegnati in questo percorso che è, come dire, impegnativo. Si fanno il mazzo, possiamo dirlo, perché il porta a porta è impegnativo. I cittadini di Parma si fanno il mazzo. Sì, nelle prime fasi ovviamente c'è un cambiamento molto importante, perché si va a toccare quelle che sono le abitudini quotidiane di ognuno di noi. Quindi come dire, il percorso va accompagnato con l'adeguata informazione, ma poi i risultati si ottengono e sono veramente importanti. Ecco, intanto quando siete partiti col porta a porta e quali sono i risultati in termini di raccolta differenziata che avete raggiunto? Allora, noi siamo partiti nel novembre del 2012 e nel corso del 2014 abbiamo raggiunto il 70%, allora era circa il 48% la percentuale. Cioè avete portato dal 48 al 70% la raccolta differenziata a Parma. Esatto. Beh, che è tantissimo. Ma il dato più interessante ancora, perché la percentuale spesso, come dire, è un dato che è relativo alla produzione dei rifiuti. Il dato più interessante è che in questo periodo i cittadini di Parma hanno praticamente dimezzato il rifiuto che va a smaltimento, cioè quello che non viene recuperato. Quello che viene bruciato. Da 280 kg a persona a 140, che è un risultato veramente importante. E come è accaduto questo? Ma semplicemente applicando un modello che è già collaudato, per cui noi in Italia possiamo considerarsi anche un'eccellenza, perché sono tante le realtà che hanno applicato il porta a porta, quindi differenziando tutte quelle che sono le frazioni riciclabili e eliminando i cassonetti dalla strada, quelli dell'indifferenziato, che sono quelli che poi, se li apriamo, troviamo materiali ancora recuperabili, quali carta, cartone, legno, plastica, e sono tutte diciamo, materie prime che possono essere rimesse nel ciclo produttivo. Cioè, quello che avveniva prima è che alcune materie venivano buttate nell'indifferenziato, invece adesso, anche grazie al porta a porta, i cittadini di Parma mettono molta più roba nella differenziata, hanno capito dove metterla e voi gliela ritirate, giusto? Esatto, qua diciamo, il sistema va a responsabilizzare ogni singolo cittadino, ogni singola famiglia. E poi noi introdurremo anche a breve quella che è la tariffazione puntuale, che andrà a premiare chi diciamo, meno rifiuto residuo produce e più riciclo si va verso il riciclo. Questo, ecco, ha prodotto anche un effetto molto positivo dal punto di vista dell'occupazione. Pensate che gli addetti alla raccolta sono passati, da quando il sistema era stradale ad oggi, sono aumentati del 57%, quindi un beneficio anche per quelli che sono... Costa di più fare questa, cioè voi avete raggiunto risultati il 70%, quindi c'è portate meno cose in discarica, che anche questo ha un costo, cioè mettendo sui piatti della bilancia quello che invece avete investito per fare il porta a porta, dal punto di vista economico qual è il giro? Infatti, diciamo, la cosa che diciamo è molto positiva è che tutto questo è avvenuto con sostanzialmente un'invarianza di costi. Proprio perché il smaltire rifiuti indifferenziati in inceneritori costa molto. Noi abbiamo ridotto di circa 3 milioni e mezzo quello che era il costo di smaltimento dal 2013 al 2014, abbiamo aumentato quelli che sono i corrispettivi dei materiali che vengono conferiti al circuito CONAI di circa 800 mila euro in 3 anni, quindi tutto questo con quelli che sono anche i benefici, appunto, per quello che dicevo prima, di maggior numero di addetti alla raccolta, si va a bilanciare con sostanzialmente un costo del servizio invariato. Beh, è un piano perfetto, perché si spende uguale, ma in realtà si spende meno per bruciare e portare all'inceneritore dei materiali, e quegli stessi soldi invece li si mette per produrre posti di lavoro. Esatto, anche perché poi aumentano gli addetti alla raccolta, ma aumentano anche quelli che sono gli addetti a quelle aziende che si occupano di riciclo, cioè di trattare quelli che sono i materiali, quindi gli imballaggi, e creare nuovi materiali, che sono sostanzialmente aziende, la maggior parte sono aziende artigianali italiane, e quindi si va a dare una spinta a un settore che in questo momento ne ha particolarmente bisogno. E in più direi tutto questo col tempo dovrebbe costare meno anche per i cittadini. Infatti ci stava parlando della tariffazione puntuale, ovvero che gli stessi cittadini pagheranno meno. Come funziona la tariffazione puntuale? Allora, la tariffazione puntuale semplicemente va a misurare quelle che sono le prestazioni dei singoli cittadini tramite una specie di contatore, diciamo. Il bidone per il residuo che viene consegnato ad ogni famiglia ha un transponder, che è un sistema. Il residuo intendiamo quello che non è differenziato, tutto quello che avanza. Si chiama residuo, indifferenziato, secco, non riciclabile, lo chiamiamo in vari modi. Insomma, meno si differenzia, più si paga, diciamo. Questo è un po' il concetto. Esatto. O meglio, più si differenzia, meno si paga. Ecco, mettiamola così, che è meglio. meglio. Più si differenzia, notizia, meno si paga. È una notizia bellissima. Direi che dovrebbero adottarlo tutti i comuni, senza nemmeno stare a pensarci tanto. Assolutamente. Noi ringraziamo l'assessore Gabriele Folli di Parma per essere stato con noi. Buona domenica. Grazie ancora. Grazie, buona domenica. Per averci raccontato, insomma, il gioiellino del porta a porta che, insomma, sarà rappresentato al Salone Internazionale di Johannesburg. Quindi vuol dire che qualcosa di buono c'è, anche, insomma, riconosciuto da altri. Continueremo tra poco a parlare di temi ambientali, di sostenibilità, con Diego Parassole, che sarà in studio con noi alla prossima ora. Che già salutiamo, che è un amico che adesso arriva qua, comico, con noi in studio. Autore di libri, All You Can Eat, l'ultimo, testimonial dell'Expo dei Popoli, insomma, tantissime cose. A tra poco, 800 24 00 24. Cronache da un paese migliore. Che leggermente, quasi sulle punte, faremo la rivoluzione. Armati fino ai denti di tanta educazione e senza la televisione. Basta non urlare, stare ad ascoltare, rispettare il turno, scusi, grazie, prego, e poi togliamo il disturbo, perché ciò che è formale è anche sostanziale, non è bello insultare. Leggermente, senza inquinare, difenderemo la nostra opinione, faremo attenzione a non urlare e a rispettare l'ambiente e le persone. Leggermente, senza mano pesante, sarà come un'enorme prova d'amore riportare la cultura all'altare. Sarà un'enorme festa popolare, molto leggermente, qua si sulle punte, una rivoluzione con l'educazione fatta di piccole, molto leggermente, qua si sulle punte, una rivoluzione con l'educazione fatta di piccole. Poi chi al comando darà il buon esempio, lasciando aperta la porta e la finestra per far entrare correnti d'aria fresca. Solo l'istituzione avrà la precedenza. Staremo attenti. Questa è Si può fare, questa che avete appena ascoltato è Leggermente di Piero Sidoti, che è un amico ed è stato anche ospite qui in trasmissione domenica scorsa, quando io purtroppo non c'ero perché ero al Salone Internazionale del Libro, che però approfitto per salutare, e saluto anche Beppe Battiston, che era qua al telefono. Io ero invidiosissimo perché parlavano con Alessio e io non c'ero. È stato un bel momento, soprattutto perché tu non c'eri. Esatto. e come ho ricordato, io mi ero svegliato puntualmente perché nel caso che volessi chiamarmi, però giustamente la linea era occupata da Beppe Battiston, che la occupa tutta. E in più c'era Piero Sidoti, che salutiamo tantissimo. Oggi l'abbiamo scelta questa musica perché è un bel Si può fare, insomma, una canzone che parla anche così di una rivoluzione di idee e di modi di fare. Noi cerchiamo sempre Si può fare musica. Vi ricordiamo che potete segnalarceli i vostri Si può fare musica, sia che voi siate dei compositori, sia che siate dei musicisti, sia che siate semplicemente degli ascoltatori, che trovate una canzone che è un giusto Si può fare in musica. Lo potete fare sui nostri account Facebook, ovvero Si può fare trattino Radio 24, oppure sul nostro account di Twitter, che è chiocciola Si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini e il mio chiocciola Ale Maurizi. Ma adesso è il momento di dare il benvenuto a Diego Parassole. Ciao Diego. Buongiorno. Eccoci qua. Ciao Diego. Siamo Alessio. Felici che tu sia con noi. Anch'io sono felice. Mi chiedo come facciate a essere così veloce a quest'ora. Io ho sempre pensato che fosse una finta diretta e che fosse tutto registrato. Invece no, pomeriggio. Anche la domenica. Esatto, io sono felicissimo. Ma che noi sia siamo qua. Svegli solo la domenica mattina. Il resto della giornata poi sabato. Ci riposiamo. Cioè, tutta la dormiamo. Settimana è registrata, la domenica in diretta. Esattamente. Sono molto felice che sia qua Diego Parassole, perché l'ho incontrato in treno e ne esiste testimonianza, perché abbiamo fatto anche un periscope insieme. Assolutamente. O una vero, periscopata, vero. Non so se si può dire, ma un periscope. Ho detto siamo periscope, rimasti tutti bloccati. Un periscope. Sì, esatto. C'è ancora qualcuno che non sa cos'è periscope? Io, per esempio. Periscope è una app che si collega a Twitter, per la quale si può andare in streaming, quindi in diretta video, semplicemente schiacciando un tasto. Perfetto. È il momento di periscope, tutti fanno i periscope al mattino. treno c'è Fiorello tutti i giorni e tutti gli altri. Quindi sono molto contento, perché in quel viaggio in treno poi parlammo invece di temi legati all'ambiente, al cibo, e quindi perché insomma, ho detto, Diego, assolutamente bisogna farlo arrivare in trasmissione. Chi l'ha visto, insomma, o nei suoi spettacoli o in TV recentemente, sa che la comicità di Diego Parassolo ormai è tutta declinata sui temi ambientali, la sostenibilità, la nutrizione. Ha scritto l'ultimo libro All You Can Eat, sì, mangiare sì, meglio oggi per non stare a dieta domani, che non è un libro di ricette, diciamo, è un libro sul futuro del cibo e dell'alimentazione, lo dico tirando l'hai un presa po'. Un pochino più sul serio, nonostante tu sia un comico, perché adesso va nei libri di ricette, però giustamente tu dici non è un comico serio, il bello di Diego Parassolo è un comico serio, esatto, tanto serio che è stato gli hanno chiesto, insomma, di fare da testimonial anche di Expo dei Popoli, che è una, dicelo tu che cos'è, una rete di associazioni, che si occupa di divulgare, di portare avanti nel periodo di Expo tutta una serie di tematiche legate al tema del clima, del cibo, dell'alimentazione, dell'ambiente, della sostenibilità, temi di cui si potrà parlare in maniera assolutamente libera, tranquilla, senza problemi di sponsor o altro, e noi ne parleremo in particolare il 3 e il 4 poi a Milano, a Milano, giugno, Fabbrica del Vapore, diciamo, la Fabbrica subito. Del Vapore, sì, il 3 ci sarà lo spettacolo di Frankie Energy con anche l'orchestra di Viale Padova, e poi il 4 saremo io e Giobbe Covatta con due spettacoli sempre legati alle tematiche ambientali, del cibo e tutto il resto. Tra l'altro tu hai cominciato a occuparti di queste cose quando ancora di Expo non parlava nessuno, nutrire il pianeta non sapevamo cosa significasse. Sono tanti anni, perché tu hai già scritto degli spettacoli, il primo, sì, io ho scritto il primo spettacolo era Che Bio C'è la Mandi Buona, che voleva parlare di cibo, poi ci siamo dilatati e abbiamo detto no, rimane troppo poco per il cibo, di lì siamo andati a I Consumisti Mangiano i Bambini, cioè l'eccesso di consumo mangia il futuro dei nostri figli, dove già si parlava abbondantemente di cibo, e poi è nato l'ultimo spettacolo da cui è stato tratto il libro è All You Can Eat, e qui è il futuro dell'alimentazione, perché insomma, secondo anche quanto ci dice la FAO, dobbiamo stare attenti, preoccuparci, non solo perché ci sono quasi 1 miliardo di persone che hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, ma anche perché stiamo consumando troppo le nostre risorse, e quindi dobbiamo darci una regolata, mettiamo in questi termini. Ci tengo a ricordare che insieme a Diego scrive Riccardo Pifferi, sia gli spettacoli sia il libro, giusto? Lo faccio un po' per difendere un collega, assolutamente. Anche perché mi spiace che racconto sempre dei pezzi della mia vita, però per me Riccardo Pifferi è anche stato un mio maestro, perché quando io ho iniziato a scrivere per Paolo Rossi, l'autore di Paolo Rossi era Riccardo Pifferi, e quindi ci tengo moltissimo sia a ringraziarlo sia a salutarlo e a ricordare che dietro i comici ci sono anche gli autori. Assolutamente, infatti il libro è firmato da entrambi. Esatto, tengo a dirlo, è un signore Diego Parassolo. Ci tengo a dirlo, non mi piace la figura del ghostwriter, perché diventa poi imbarazzante. No, mi sembra un lavoro, bisogna specificare. Si può parlare seriamente, però ridendo, di queste cose. Io ho letto addirittura un pezzetto della, credo sia la postfazione del professore Segre. Sì, della Segre, che è un esperto serio, cioè preside della facoltà di agraria a Bologna, fondatore del Last Minute Market, insomma una persona che ne sa seriamente anche in termini scientifici di queste cose, che parla con parole di elogio del tuo libro e dice guardate che Parassolo vi fa ridere, però quello che dice tocca delle questioni vere, scientifiche, serie, e quindi insomma un complimento meglio di questo. Sì. Ma tu pensa che la revisione scientifica del libro me l'ha fatta Donato Ramani, che si occupa di comunicazione della scienza in Sissa Trieste, una delle principali università legate al tema della comunicazione c'erano della scienza. C'erano un sacco di segni rossi dopo. Sì. Abbiamo lasciato qualche piccolissima semplificazione, perché insomma è un libro che deve essere anche comico. Per esempio io parlo di pianta maschio e pianta femmina del mais, in realtà negli incroci, nell'ibridazione del mais, in realtà ogni pianta di mais è una parte maschio e una parte femmina, e quindi però insomma diciamo qui, che sfondi una porta aperta in questa sfondi casa. Una porta aperta, esatto. Hai capito. Da qui allora, il mais è autosufficiente, non ha problemi di matrimonio, diciamo. Esattamente. Tra poco entreremo capitolo per capitolo, insomma no, capitolo per capitolo magari no, ma insomma anche nel dettaglio di questo libro Mangiare Meglio Oggi per non stare a dieta domani, All You Can Eat, con Diego Parassolo. Sentiremo anche un po' di ascoltatori magari sul gioco, prima però dobbiamo fare una pausa per il traffico e poi torniamo a 0024 0024, tra un attimo. si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. E da Diego Parasole che è in studio con noi. Eccoci qua. Eccolo qua di nuovo con noi. Allora, ascoltatori, abbiamo Dante che chiama da Foggia, buongiorno. Buongiorno. Per che cosa, su quale argomento, Dante? Sul quiz. Prego. Per me Vittorio Sgarbi. Però sì, allegro perché si vince, si vince un premio alla fine. L'hanno obbligata a chiamare, sua moglie. L'obbliga. A volte succede, eh? No, nessuno mi ha obbligato a chiamare. L'ha obbligato Vittorio Sgarbi. Ha detto esatto. Sgarbi, per quale notizia, Dante? Pare che abbia dovuto versare 20.000 euro per una sentenza. Mm-hmm. Non era aggiornatissimo su Sgarbi, però anticipiamo subito che non era lui il personaggio. No. Grazie Dante per aver chiamato, grazie mille. Buona domenica. Buona domenica. Virginio da Roma, si era un po' abbacchiato. Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Perché cosa voleva intervenire? L'argomento è quello delle pensioni, che praticamente il ministro Pado ha, in un certo senso, ha criticato le decisioni della... Sì. Dei giudici costituzionali. Sì, ha detto che dovevano coordinarsi di più, aspettare sì, di avere i dati. Una botta risposta che poi il presidente Mattarella ha un po' chiedato le cose. Sì. E quindi? E quindi il personaggio è il Padoan. Ah, perfetto. Cioè la notizia è questa, il personaggio secondo lei è il ministro dell'economia. Sì, per quello che riguarda praticamente le pensioni, perché ha avuto da dire sì. In un certo senso è stata quasi una critica. Ecco. Perché noi in effetti come primo indizio abbiamo detto che il personaggio... Ha diviso l'opinione pubblica. Esatto. Ha diviso, gli sembra niente le pensioni. No, assolutamente, certo, anzi. È tutto corretto, tranne purtroppo il nome personaggio, del personaggio. Non era lui. Ringraziamo moltissimo per aver chiamato, buona domenica. Prego, altrettanto. Ma esistono ancora? Ora le pensioni in Italia, avevo capito. No. Adesso, questo è un tema esatto. Che divide appunto. Infatti forse è quello il nostro personaggio, tu dici, le pensioni scomparse. Personaggio scomparso. Laura da Roma, buongiorno. Laura? Pronto? Eccola qua, buongiorno. Tocca a lei, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, ma non è da Roma, ma da Parma. Ah, mi scusi, ho sbagliato. Da Parma, ho letto male. No, pensavo che lei avesse sbagliato dicendo ma non è il centro commerciale, no? È in onda, ci dica tutto, perché cosa voleva intervenire? Ma volevo intervenire per il quiz. Sì. Sì. Ecco, potrebbe essere il tunisino Tuil, sì, per la faccenda, no, che era stato indagato per il... Sì, allora facciamo ordine, è marocchino, Tuil. È marocchino. Cittadino marocchino che si trova in Italia, adesso a San Vittore, sì, è accusato, Tuil, diciamo, dalla Tunisia di essere, Tunisia, diciamo, uno degli attentatori, esatto. O comunque un di avere... complice, anche complice. Se si è provato che era in Italia nel momento dell'attentato. No, loro dicono, era a Tunisi, sì, prima e certo, ha partecipato. Esatto. E questo è il personaggio, secondo lei? Sì. No, non è un personaggio, no, giusto, però chiama da Parma, vogliamo chiedere come va la raccolta. Bravo. Differenziata. Sta andando bene, anche se ci mettono molto alla prova. Sì, io infatti... Folli... Sì, prego. Ci ha chiesto molti sacrifici. Un impegno. Io ho detto, i cittadini di Parma si fanno il mazzo, perché non deve essere facile gestire il porta a porta. Avete risultati straordinari, però c'è anche un messaggio SMS, vediamo se anche lei conferma. Dice, abito a Parma, purtroppo le intenzioni sono buone, ma la realtà è diversa, la gente non ci sta a tenersi in casa i rifiuti, si creano orribili discariche spontanee in ogni angolo della città. Sì, è davvero così? C'è molte discussioni, intermento per tutte queste cose, ma insomma cerchiamo di fare il nostro del meglio. Nostro meglio, del suo meglio. Adesso arriveranno un po' di risparmi e speriamo che siate perlomeno soddisfatti da quello, dal Diego fatto. È preparato, però su questo. C'è da dire questo, io credo che noi cittadini ci dobbiamo responsabilizzare, nel senso che a Milano, vi ricordate, era stata tolta la raccolta dell'umido perché la gente ci buttava di tutto. In effetti è vero, anche un po' di giorni fa ho visto una mia vicina buttata una bottiglia di plastica nell'umido, ho detto, signora, quella è plastica, ma sì, ma dentro c'è ancora un po' d'acqua, quindi è umida. Ma se noi non ci responsabilizziamo rischiamo di trovarci coi cumuli di rifiuti per strada, quindi bisogna anche fare un appello a quelli che lasciano non mi parlare di per strada, sì, lì a Parma è incredibile, ci vuole un po' di civiltà, diciamo. Non mi parlare del condominio, perché io per esempio nel mio condominio, lo dico anche a Laura che ci sta ascoltando, dove a Milano non si fa il porta a porta, però si fa la differenziata, naturalmente ci sono quelli che ancora confondono il sacchetto per l'umido, i sacchetti quelli con cui si prende la frutta e la verdura al supermercato, che sono trasparenti, ma non sono assolutamente biodegradabili. No. Mi fa impazzire questa cosa. Mi fa impazzire a me. Dobbiamo chiederlo a Ercolini, tutto il mondo del sacchetto. Comunque, Laura, voleva commentare ancora da Parma, ci salutiamo? Voleva dire ancora una cosa? Grazie tante, e noi ce la mettiamo tutto per fare al meglio il nostro lavoro. Grazie andate avanti mille. Così, andate avanti così, grazie, buona domenica. Mi sa che dobbiamo dare un altro indizio adesso, perché stiamo già avanti. Sentiamo un ultimo ascoltatore, Luca da Milano, buongiorno. Sì. Buongiorno a voi. Volevo dire che chiamo in piena libertà di coscienza senza pressioni familiari. Questa è un'ottima dichiarazione. Ecco. Però è anche di buon umore, sentiamo. Ah, moltissimo, fantastico. Ottimo, grazie ottimo. A voi. Grazie. Dunque, il personaggio per me è Renzi. Per via del sindacato unico, che voglio dire, è una cosa che spacca molto, chi pensa che sia segno di dittatura, e quindi secondo me è una bella notizia. Poi ditemi voi. Spacca, spacca il sindacato unico, spacca la Maroni, la Camusso si è abbastanza spaccata. C'entra sicuramente il nostro indizio, però non è il personaggio che avevamo scelto per questa settimana. Grazie Luca. Saluto mia figlia Camilla e mia moglie Silvia, grazie. Saluto la figlia Camilla e la moglie Silvia. Perfetto. Camilla e Silvia. Camilla e Silvia. Senza il ruolo che la moglie Silvia. No, la moglie. Mi sono dimenticato. Comunque, Silvia e Camilla. Salutiamola anche noi. Esatto, salutiamo anche noi. Dobbiamo dare un secondo indizio? Sì, vai, Carlo. Allora, il nostro personaggio ha a che fare con l'educazione. Quindi un personaggio che divide l'opinione pubblica e ha a che fare con l'educazione. Vediamo un po', 800 24 00 24. Ricordo che oggi il premio è molto gustoso, molto goloso anzi, perché si vince tutta la parte della collana verde di guide offerta dal Touring Club insieme al Sole 24 Ore. Usciranno credo ogni giovedì, l'avevo detto prima correttamente, adesso poi a fine programma ve lo dico, perché è anche un bel lancio editoriale. Una collana su 27 luoghi d'estate da riscoprire quest'estate, luoghi dell'Italia. Quindi oggi si vince l'intera collana, però dalla portata a casa tutta in anteprima. Dovete, tra l'altro, quando gli altri andranno in edicola a prenderla, voi direte: ma io ce l'ho a casa. Diego, allora entriamo anche un po' dentro questo libro, All You Can Eat, ripeto, mangiare meglio oggi per non stare a dieta domani. Ci sono vari capitoli, dagli OGM alla questione delle api, quanto sono importanti le api. C'è anche la Casa Bianca che ha fatto una task force per salvare le api. Sì. Oppure troppa carne, troppo pesce. E dimmi tu, da che cosa vuoi partire? Da che cosa vogliamo partire forti? Da un primo o da un secondo? Direi da un secondo, iniziamo da un secondo. Guarda, allora io sai, mi piacerebbe accennare a questo, il pesce, perché è uno degli argomenti che si trattano pochissimi, no? Forse perché noi siamo poco appassionati, no? Rispetto al pesce, cioè ci piace solo quando lo vediamo cotto in tavola, e in realtà questo è un dato allarmante. La FAO ci dice nel 2048 nei nostri mari, se continuiamo a pescare così, non ci saranno più pesci di quelli che mangiamo abitualmente. Nel 2048 non è lontanissimo, nel rapporto acquacultura che consiglio di leggere a tutti, saranno quelle 300-400 pagine, però insomma facili ma anche le vongole scusami, no, sono preoccupato ai primi in questo momento. No, parliamo di pesci, ci saranno soprattutto nel mare alghe, meduse, vermi, e qualcuno dice anche razze e scilipoti che pur di non scomparire saranno passati dal gruppo misto ai gasteropodi per la libertà. Però moltissimi menù comunque, menù complicati. Ed è inquietante, perché appunto in realtà pochi lo sanno, ma sono in estinzione dei pesci, anche di quelli che noi mangiamo abitualmente. Il merluzzo, per dire, il merluzzo è un pesce che si sta avviando verso l'estinzione, che è l'unico pesce che mangiano i bambini, tra l'altro impanato. Cioè, esattamente, perché nasce impanato, nuota impanato il pesce, e questo è il problema, perché noi abbiamo perso l'idea che sia un pesce, che ha i suoi ritmi di vita, i suoi tempi di riproduzione, e pensiamo sempre di più che sia una specie di prodotto commerciale. Anche mia figlia, la quale di Genova, quando ho detto quello è il merluzzo, mi ha detto: come mai non è impanato? Quindi capisci che da questo punto di vista sì, siamo allineati. E la cosa che è inquietante, se vuoi, è che quasi tutti pensano: non mangeremo pesce di mare, magari mangeremo i pesci di fiume, e anche lì ci sono problemi seri, anche perché, guarda, proprio per citare qualcosa del libro. Non è proprio così. I fiumi sono molto inquinati, al di là di tutti gli scarichi industriali. Ogni giorno nei fiumi si riversano gli scarichi delle nostre fogne e quindi i residui delle nostre medicine. Noi prendiamo una pastiglia, la digeriamo, con la pipì la buttiamo fuori, va nelle fogne e questa va nei fiumi. Oggi la fluoxetina, il principio attivo del Prozac, si trova anche nei fiumi e nel mare. Poi dici: il pesce fa benissimo, il pesce ti rende allegro. Per forza l'acqua è piena di antidepressivi che però poi danno anche problemi di riproduzione del pesce, senza pensare agli altri, perché sono tutti a ballare anche i pesci, quindi nessuno si riproduce. Non solo sono andato a ballare e tra l'altro vittime delle sostanze stupefacenti, perché per darti un dato, ogni giorno si versano nel Po i residui di 4 kg di cocaina. Quanto anche spreco. Questo non si può dire, Carlo, non si può dire. Con tutta la cocaina che c'è dentro, se un lupo incontra un agnello che ha appena bevuto nel Po, l'agnello gli fa un mazzo così. Perché, insomma, in qualche modo abbiamo sempre meno pesce, la gente pensa mangeremo pesce d'allevamento, no, perché il pesce allevato consuma altro pesce, per cui in realtà l'allevamento consuma più pesce di quanto produce. Per darti l'idea, per fare un chilo di salmone ci vogliono 5 chili di altri pesce. Quindi insomma, da questo punto di vista non resta che mangiare pesci piccoli, peraltro anche le alici, le sardine, qualcuno incomincia a dire sono in via di estinzione, leggevo recentemente un rapporto di Greenpeace, mangiare un po' meno pesce, non mangiare sempre i soliti pesce soprattutto. E soprattutto veramente consumarne meno. In qualche modo la FAO ci dice sul lungo periodo è la ricetta della nonna, no? Però mangiare variegato fa bene a chi mangia, ma anche all'ambiente, cioè cambiare molto l'alimentazione senza mangiare sempre, sembra un po' la ricetta della nonna, però è così, alla nonna diceva poco di tutto, vedi, perché poi la comicità, mia nonna diceva troppo di tutto, infatti vedi come sono ridotto, perché era per la quantità, sai, le nonne, scusami ti ho interrotto. No, la comicità che tu fai scaturire, Diego, con i tuoi spettacoli nasce proprio dal contrasto tra queste apparenti evidenze, ma rispetto poi al comportamento di ognuno di noi, non so, ci lamentiamo della crisi, poi tu ci ricordi sprechiamo acqua, energia, sprechiamo un sacco di cose, quindi i perché, no? Adesso me l'ero segnato, perché buttiamo via gli oggetti funzionanti, per esempio, anche questa è una cosa che lo facciamo, ma perché fa figo avere l'oggetto nuovo, no? Il nuovo modello di qualcosa è una cosa che ti appassiona e comunque ti rende trendy, no? Se hai il penultimo modello di qualcosa, alla fine sono sfigato, e quindi rincorriamo la novità anche se spesso non serve realmente a nulla. Cioè, ti faccio due esempi curiosi. Allora, i televisori, no? Se si è passati dai televisori a tubo catodico a quelli al plasma LED. Poi sono arrivati quelli a LED. In genere i televisori a LED te li pubblicizzavano perché dicevano consumano meno all'inizio, poi ho visto che non funzionava anche per chi doveva comprare i televisori. Oggi ti dicono sono ancora più belli, ancora più sottili, però diciamo la verità, se hai già un televisore al plasma schermo piatto, cosa ti serve averlo più piatto? Cioè, conosci qualcuno che passa tutta la giornata a guardare il televisore di profilo? Un televisore, anche il più sottile che c'è, dopo 5 minuti ti rompi le balle, passi davanti se lo guardi di profilo, ed è un casino. La cosa incredibile è che il televisore è sempre più sottile e le immagini sono in 3D, per cui la gente dice sembra che l'immagine esca dal televisore, per forza, certo. Troppo sottile, dentro non ci sta. Da un certo punto di vista buttiamo via cose funzionanti, e questo ha anche un impatto serio sull'ambiente. Da questo punto di vista veramente sprechiamo tantissime risorse, anche perché per produrre le cose ci vuole una quantità incredibile di acqua. Per darti un'idea, per un'utilitaria si parla di circa 500.000 litri di acqua nella lavorazione e 1 milione di litri di acqua per un'auto di grande cilindrata. Per un'automobile, ma per una macchina. Parlavamo della benzina, ma invece sentire 1 milione di litri di acqua. Sì. Per una maglietta in cotone, a seconda delle metodiche di lavorazione, anche 10-12.000 litri di acqua, forse anche di più in alcuni casi. Quindi. Quando si dice che l'acqua sta finendo, non stiamo parlando dell'acqua alla tavola, direi. Esattamente. Devo dire che ascoltandolo, Diego, io mi domando perché non ti hanno fatto a te ambassador di Expo, perché ne sai più tu di tanti professori che. Quanti anni è che studi? L'hai detto, insomma, perché tu stai studiando. In realtà ho iniziato a occuparmi di ambiente, ti direi, nel 2008-2009. Sì, quindi non è relativamente tanto tempo, però in questi anni hai proprio studiato. Sì, perché comunque, poi, insomma, quando è nata mia figlia ho detto, meglio capire cosa darle da mangiare. Questa è una cosa che succede eccetera. A tutti, anch'io bello. Quando è nata mia figlia, quasi 4 anni fa, ho cominciato biologico, verdure, riscopriamo tutta la natura. Infatti io mangio solo schifezze perché non ho figli. Almeno tu che puoi, continua così. Adesso parliamo anche un pochino di magari di Expo, che cosa ne pensi tu che sei appunto uno dei 3 testimonial tra gli altri di Expo dei Popoli, che è appunto questa rete di associazioni che fiancheggia con un punto di vista critico anche il modo in cui è stato gestito l'Expo Nutrire il Pianeta. Però adesso vorrei sentire anche qualche ascoltatore all'800 24 00 24. Maria Carmela da Cagliari, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Volevo dare una risposta. Al sì. Per me è Norberto Achille. Sì, l'ex numero uno di Ferrovie Nord. Sì. Delle Ferrovie Nord. Che ha quello che pagava le multe al figlio con esatto, i soldi dell'azienda. Esatto. Perché non so se le colpe dei figli cadono sui padri oppure il contrario. In questo caso, sì, la notizia c'è assolutamente. È un personaggio che più che dividere l'opinione pubblica fa infuriare l'opinione pubblica. Non era lui, però, a cui avevamo pensato. Grazie comunque, Maria Carmela. Grazie mille, buona domenica. Nadia da Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Allora, secondo me il personaggio è la parrucchiera di Padova che ha messo il cartello con tariffe differenziate fra bianchi e neri. Cioè a Padova c'è una parrucchiera che ha messo tariffe differenziate. No, sì. Ma è una storia. 6 euro per i neri e 10 euro per i bianchi. Cioè costa meno per i neri? Sì, lei è di colore, la parrucchiera. Ah, quindi c'è un razzismo al contrario, comunque una forma di razzismo, sì, se vogliamo, anche questa. Sicuramente... è bello perché si passa dal razzismo dei bianchi verso i neri e quello dei neri verso i bianchi. È bello perché si rimane nell'ambito del razzismo. Il mondo è bello perché è vario. Esatto. Cioè, variano è la rivincita in qualche modo. Esatto. Nadia, bella notizia. Questa non la sapevo, tra l'altro. Cioè, bella notizia. Non è una bella notizia, però è bello che lei ce l'abbia ricordata. Ma magari però... sono più facili da tagliare i capelli. Bisogna anche informarsi. Chi lo sa, magari fanno dei tagli più. Ma va no, bene. È una domanda avanti per Nadia? No, non è una domanda. Nadia, grazie. Grazie a voi. Per grazie aver giocato mille con noi. Non era comunque questo il personaggio. Che facciamo? Lo aggiungiamo? Dobbiamo dare degli altri indizi. Sì, forse adesso, sì. Sembra che oggi siamo molto lontani. Oppure ci teniamo noi la collezione di 27 libri con i luoghi estivi. Allora, ripetiamo. È un personaggio che divide l'opinione pubblica. Ha a che fare con l'educazione. Un indizio lo possiamo dare subito. Che indizio è? È una donna. È una donna, vai. È una donna. 800 24 00 24. Vediamo se ci arriviamo. Oppure se come è successo anche... No, però rarissime volte non abbiamo dato mai. Premio. Quasi sarebbe mai. La prima forse volta. Mai. Sarebbe la prima volta. Infatti capirebbero che vogliamo tenerci le guide. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo subito. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Veste truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una spezia all'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Proprio di una Vespa parliamo, ma di un'ape. Ma non c'era l'ape. La canzone adatta sull'ape, non ce l'avevamo. L'ape del maestro in pensione Antonio Lacava, ideatore del Biblio Motocarro. Antonio, buongiorno, buona domenica. Buongiorno e buona domenica a voi. Ben buongiorno, ritrovato, ci fa molto bello, piacere. Esatto, è sempre bello sentirla. Risentire Antonio Lacava, che insomma abbiamo conosciuto un po' di tempo fa con la sua iniziativa del Biblio Motocarro, un'ape riadattata a biblioteca. Proprio se la cercate anche su internet trovate le foto. È bellissima. È azzurra con anche col il tetto rosso e tutti il i libri. Camino e dentro tutti i libri. Antonio va in giro, in Basilicata, ma non solo, a portare la biblioteca laddove nei piccoli paesi spesso non c'è. Antonio, noi l'abbiamo convocata, come direbbero i colleghi Genta e Pardo dello sport, l'abbiamo convocata perché c'è la manifestazione del Biblio Pride questa settimana, cioè l'orgoglio delle biblioteche, una manifestazione, lo diciamo, istituzionale, andrà avanti fino al 6 giugno, insomma, tutti orgogliosi di lavorare in biblioteca, un servizio importante. Lei è un bibliotecario, Antonio, diciamo, sui generis, perché va in giro con l'ape. Come va l'attività intanto? L'attività va molto bene, molto intensa in questo periodo, in maniera particolare perché c'è il maggio dei libri, fioccano le iniziative nei comuni non solo lucani ma anche delle regioni limitrofe, in particolare nella Puglia. Il Bibi Motocarro è molto desiderato nei paesi pugliesi, nella provincia di Bari, di Brindisi. Ma quanti chilometri deve fare per arrivare in provincia in Puglia? Io faccio viaggi anche di 250 chilometri. Con l'ape? Con l'ape, sì, faccio viaggi di 5 ore, anche 5 ore e mezza. Ma io gli avevo detto anche l'altra volta, ma in famiglia non cercano di trattenerla, tutti sti chilometri. La mia è una famiglia magistrale, nel senso che mia moglie era maestra, i miei figli anche, quindi c'è una condivisione della iniziativa. Quindi sono tutti dalla sua parte, o se li deve proprio portare, caricare sull'ape e portarseli dietro, no? Questo no. No, ho provato, però il mezzo è sicuro, è lento, però voglio dire, soprattutto nelle giornate insomma un po' meteorologicamente infelice, non è proprio un bel viaggiare. Ecco, ecco, a proposito, qual è la sua giornata tipo? Cioè, quando va in giro col Bibi Motocarro? Lei si alza la mattina a che ora e poi va dove? Beh, dipende da quando vado nelle scuole. Diciamo che l'attività tradizionale mi porta nelle scuole lucane, nelle scuole della provincia di Matera, in particolare nelle scuole dei paesi al di sotto dei 1000 abitanti. Noi realizziamo un progetto che è suggestivo già nel nome, fino ai margini. Cioè raggiungiamo le periferie più emarginate, dove appunto non ci sono né librerie né biblioteche, e portiamo le nostre attività, che sono attività classiche, diciamo. I libri hanno messo le ruote, biblioteca viaggiante con prestito gratuito dei libri, i libri bianchi, che sono libri composti da racconti scritti da bambini di paesi diversi, per cui sono storie che cominciano in un paese, che continuano in un altro, poi si interrompono, poi ricominciano, ed è una cosa meravigliosa. Perché, poi abbiamo delle attività laboratoriali, entrare con la testa, uscire con gli occhi e dalla pagina al mondo. Per cui, partendo da un testo letterario, realizziamo rispettivamente o un video di animazione o un cortometraggio. Per cui il Bibi Motocarro è un'idea postmoderna, perché coniuga la tradizione, il libro, con la modernità, i nuovi mezzi di comunicazione di massa. Pensa un po', questo è il fascino, è un po' l'idea vincente del Bibi Motocarro. Noi non demonizziamo i nuovi mezzi di comunicazione di massa, che sono assolutamente indispensabili, certo, però li riempiamo di contenuti che prendiamo dai libri, che sono tra l'altro libri. Antonio, lei che è maestro in pensione e con questa attività del Bibi Motocarro, soprattutto scuole elementari, ho capito bene? Sì. Quindi soprattutto, ma non solo. Bambini sotto 10 anni, diciamo, sono un po' il target. Sì, dai 6 agli 10-11 anni. La cosa straordinaria, possiamo dirlo, che i bambini di fronte al libro sono molto attratti. Poi non so perché qualcosa succede crescendo, almeno in Italia, questa passione per la lettura decade un po', no? Però i bambini di fronte ai libri si esaltano moltissimo. A questo riguardo io le devo citare un episodio che mi è accaduto mercoledì scorso. Ero a Francavilla Fontana, paese in provincia di Brindisi. Pensi che in una giornata, in 7 ore, ho incontrato 27 scolaresche, qualcosa come più di 600 bambini con queste attività di animazione. Abbiamo raccontato che cos'è il Bibi Motocarro. Ma le volevo dire una cosa, uno di questi fanciulli, un certo Mattia, mi ha detto: maestro, come si sente ad essere l'idolo di tanti bambini? Era la prima volta, è stata la prima volta che ho sentito una cosa. Mi sono sentito quasi intenerito, quasi commosso. E ho capito, per essere definito idolo, certo, da parte dei fanciulli. Voglio dire che sappiamo che gli idoli di oggi sono i calciatori, gli attori, le attrici, i cantanti, personaggi dello spettacolo. Ma solo pensare che i bambini cominciano ad immaginare che possa essere idolo un idolo. Bibliotecario di strada. È vero, è un risultato straordinario. È bellissimo. E conferma che la strada è quella giusta, che i miei 100.000 chilometri, perché io ho percorso 100.000 chilometri nei 16 anni di esistenza del Bibi Motocarro, di cui 80.000 in Basilicata, ma 20.000 nelle regioni d'Italia, dicevo che tutti questi chilometri sono stati percorsi positivamente, per cui seminando. Il lavoro del maestro è quello di seminare. I miei genitori erano contadini, quindi io mi sento un seminatore ancora più particolare. Quindi seminando e lavorando bene, i risultati i risultati si ottengono, ed è quello che ed è il messaggio che io voglio dire. Noi qua siamo quasi con le lacrime agli occhi, non vada avanti così Antonio, perché sennò ci commuoviamo, perché la storia è bella e poi si ravviva ogni volta la storia è bella. A proposito di ravviva, sì, le voglio dire una cosa: il Bibbia Motocarro non è solo più un'attrazione per i bambini, ma si avvicinano sempre più gli adulti, non solo per prendere un libro, ma utilizzano l'occasione di prendere il libro come un punto di incontro, di contatto, cercano quasi un legame, lo metto tra virgolette. Leviamo anche il quasi, sicuramente cercano anche un modo per cui il Bibbia Motocarro non è solo una, diciamo così, un mezzo, sta diventando sempre più un luogo. Via, ce ne vorrebbe uno in ogni regione o in ogni provincia. Io spero che possa diventare un fenomeno diffuso e nazionale, oltre che un simbolo lucano, perché io ci tengo. Per ora è un simbolo lucano. Antonio, noi siamo qua comunque a disposizione per raccontare, per aggiornare un po' la storia del Bibbia Motocarro. Sicuramente lo faremo molto presto. Intanto grazie per quello grazie che fa mille. Per come lo fa e per come viene a raccontarcelo ogni tanto anche posso qua fare da noi, un appello alle case editrici, sì, regalate dei libri al maestro. Regalate dei libri al maestro. Se lei lascia poi i suoi dati, maestro, sì, le spedirò anche il mio libro, così lo facciamo girare un po' tra... Il libro di Diego Parassole, che è un comico e che parla di sostenibilità, quindi adattissimo ai ragazzi. Io sono lieto di questo, perché le devo dire che nonostante questa notorietà, diciamo, ultima peraltro, sì, perché il Bibbia Motocarro ha 16 anni di vita, ma nei primi 14 praticamente è stato un lavoro nell'indifferenza di studio. Ma anche adesso, sì, anche adesso la nostra vita è gioita e sofferta. È gioita perché l'affrontiamo ogni mattina con gioia e con entusiasmo, e sofferta perché i problemi nostri sono quelli di ieri e sono quelli dell'inizio. Vabbè, cioè, questa diciamo mi sta facendo la preghiera laica del bibliotecario, Antonio. No, le dico che sì, praticamente non abbiamo sponsor, non abbiamo finanziamenti istituzionali. Antonio, quindi noi la nostra parte ce la mettiamo per sostenerla. Esatto. Grazie ancora. Grazie mille. Buona domenica. Forza, avanti così. Traffico. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E fuori onda Diego Parassola ha sparato una delle sue, ha detto adesso il traffico, cos'è che hai detto? Dirà? Ho detto adesso sentiremo negli avvisi del traffico una lunga coda causata da un motocarro e che ha aggiunto carico di libri che sta intasando l'autostrada. Esatto. In un bellissimo viaggio di 5 ore, non sapevo facesse dei viaggi così lunghi, comunque è una bellissima storia e lo risentiremo di sicuro. Mandaglielo il libro assolutamente, Diego, così. Sì, dobbiamo chiedere al maestro che ci mandi l'indirizzo, sì, a cui mandargli i libri, sovvenzioni o altro, e cercheremo di appoggiarlo. Senti, ma dicevamo, no, Expo, un giudizio su Expo. Tu sei testimone di Expo dei Popoli, ne parlerai il 4 giugno alla Fabbrica del Vapore a Milano, quindi con Giobbe e Covatta, eccetera, eccetera. E appunto Frankie Energy, quindi appuntamento. Gli spettacoli sono gratuiti per il pubblico, anche noi non percepiamo ci tengo a dirlo, parleremo di questo. Expo, io devo dirti la verità, non sono ancora stato all'interno di Expo, quindi ho solo dei giudizi per sentito dire. C'è chi dice molto bello, c'è chi dice pochi contenuti. Io devo dire, ho provato qualche volta a guardare il programma degli eventi e se devo essere onesto ci ho capito pochissimo, poco. Quindi sto dicendo vabbè, aspettiamo più avanti, vedremo se sarà più chiaro quel che succede. Sicuramente un salto. Tanto noi abbiamo tra i nostri ascoltatori e amici, followers, il responsabile proprio del sito di Expo, ci parlavo l'altro giorno, quindi facciamo un appello. Si capisce poco di quello che succede, convegni, c'è sicuramente tanta roba. A parte devo dirti che mi è piaciuta la tua risposta su Expo, che dici non ci sono ancora entrato, quindi Non ti fermi, diciamo, a un giudizio sul grande evento, sugli sponsor. Dici fammici andare, voglio vedere, perché magari poi scopriamo che qualcosa di buono c'è anche da parte di uno che parte comunque prevenuto magari. certo, da questo punto di vista le polemiche anche di Expo di questo periodo tra Petrini e McDonald's, insomma, fanno capire che qualche problema nel far convivere sì. tante anime diverse, c'è. Per dirla alla Renzi, almeno si discute di questi argomenti, questo potrebbe essere già un merito. Lui ha detto: si discute tanto di scuola, cari insegnanti, che siete in contrasto con quello che è la nostra riforma, però almeno si parla di scuola, almeno si parla di alimentazione. Tu lo fai da anni. Esatto, però esatto. Expo, diciamo, diventa... Sì, viene da dire, almeno si parla di alimentazione, non molto a Expo, però fuori se ne parla. Allora, abbiamo cosa abbiamo? Antonella dalla provincia di Latina, un'ascoltatrice al volo, per vedere se indoviniamo il personaggio. Antonella? Salve, buongiorno. Sì? Sono Antonella, volevo rispondere al quiz. Sì? La Gelmini. Perché? Perché si parla tanto di scuola che di vita. Certo, opinione pubblica, educazione, rimana... donna, Maria Stella Gelmini. Sì. Però non era lei. Non era lei il personaggio, no, non c'era diciamo, una notizia, comunque non era lei a cui avevamo pensato. Mi sa tanto che questa volta è molto probabile che sia una delle prime volte in cui... La prima volta in cui ti tieni la collana, volevi dire, Alessio? Mi tengo la collana. Sì, ma collana, io ho la sensazione che Alessio non voglia semplificare e dare indizi, perché la collana se la vuole fotocopiare, esatto, con calma, e non ha fatto in tempo a finirla, se la vuole portare a casa. E poi forse la consegniamo così. Settimana prossima. Adesso è il momento dei... Non me lo posso sul permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere. In super chiusura, Federico Taddia, ciao di nuovo, buona domenica Fede. Buona domenica a voi. L'appuntamento ciao. Con le iniziative che in rete cercano sostegno, aiuto, fondi. Tante, tantissime, oggi ne ho scelte alcune, credo ci sia il tempo giusto per fare. Giochiamo in casa, e visto che avete parlato anche di Expo, avete parlato di cibo, avete parlato di agricoltura, di contadini, voglio proporre l'iniziativa lanciata da due amici. Lui è uno studente di agraria, lei è una giornalista, Sara Spreafico, che tra l'altro è stata anche nostra collaboratrice a Radio 24 qualche certo. anno fa, che ha deciso di fare i bagagli, tornare in Molise, aprire una piccola fattoria dove specializzarsi nella lavorazione e trasformazione delle fragole e del zafferrano. Ah, hanno luogo, molto bello, mancano 10.000 euro per aprire i laboratori dove fare le prime marmellate. E hanno deciso il crowdfunding perché vogliono che sia un'impresa di tutti. 5 euro il grazie come ricompensa, con 10 euro piantano un albero nel tuo onore nella loro fattoria. Con 20 euro ti garantiscono il primo assaggio quando saranno pronte le gelatine di vino, le marmellate e lo zafferano, e appunto con 50 euro l'oro giallo. I contatti. In contanti, esatto. No, i contatti, Fede, i contatti. I contatti, scusa. Produzione dal basso è sì. la piattaforma fattoria sa.ra, che sono Sara e Raffaele, per trovare il progetto. Bellissima. Per una volta, braccia tolta all'agricoltura, braccia che torna all'agricoltura. Si dice dei giornalisti tante volte, no? E questa volta l'agricoltura è giornalista che torna a questo. Grazie, Fede. C'era tempo grazie solo mille. Per una segnalazione. Vi ricordo che tutte le segnalazioni del crowdfunding di Federico Taddia le trovate nella pagina che si può fare sul sito di Radio 24. Io ringrazio Andrea Piana, autore insieme a noi del programma, Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone, Lorenzo Nepoli in diretta oggi in assistenza, Peter Bescapà in regia, naturalmente Diego un Parasone, grande grazie a Diego, grazie a voi, a presto, appuntamento il 4 febbraio, sì, buonanotte, il 4 giugno alla Fabbrica del Vapore di Milano, Expo dei Popoli. Ciao da Carlo Gabardini e Alessio Maurizio, sabato prossimo, un abbraccio, ciao.